la festa del Corpus Domini. Oggi, solennità del Corpus Domini, mentre meditiamo insieme la profondità dell'amore che ha spinto il Signore a restare con noi sotto le specie sacramentali, ci sembra di udire quasi fisicamente quel suo insegnamento alla folla. Ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c'era molta terra. Subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma spuntato il sole, restò bruciata e non avendo radici, si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il 100, dove il 60, dove il 30. La scena è di attualità. Anche oggi, come allora, il seminatore divino sparge la sua semente. L'opera della salvezza continua a compiersi e il Signore vuole servirsi di noi. Desidera che i cristiani aprano al suo amore tutti i sentieri della terra. Ci invita a propagare il messaggio divino con la dottrina e con l'esempio fino agli ultimi confini del mondo. Ci chiede che come cittadini della società ecclesiale e di quella civile, svolgendo con fedeltà i nostri doveri, ciascuno di noi sappia essere un altro Cristo, santificando il lavoro professionale e i doveri del proprio Stato. Guardando attorno a noi questo mondo che amiamo perché è opera divina, constatiamo che la parabola si fa realtà. La parola di Gesù è feconda e suscita in molte anime desideri di dedizione e di fedeltà. La vita e le opere di coloro che si sono posti al servizio di Dio hanno cambiato il volto della storia, al punto che molti di coloro che non conoscono il Signore sono spinti, forse senza saperlo, da ideali suscitati dal cristianesimo. Vediamo anche che parte della semente cade in terra sterile o tra le spine e i cardi. Vi sono uomini che si chiudono alla luce della fede. Gli ideali di pace, di concordia, di fraternità sono accolti e proclamati, ma spesso sono smentiti dai fatti. Taluni poi si affannano inutilmente a imprigionare la voce di Dio, impedendone la diffusione con la forza bruta o con un'arma meno rumorosa, ma forse più crudele, perché rende insensibile lo spirito, l'indifferenza. Il pane di vita eterna. Vorrei che, vedendo tutto ciò, prendessimo coscienza della nostra missione di cristiani e volgessimo lo sguardo alla Sacra Eucaristia, a Gesù, che è presente in mezzo a noi, ci ha costituiti sue membra. Vos estis corpus Christi et membra de membro. Voi siete il corpo di Cristo e membra unite ad altre membra. Il nostro Dio ha deciso di rimanere nel tabernacolo per essere nostro alimento, per darci forza, per divinizzarci, per dare efficacia al nostro lavoro e al nostro sforzo. Gesù è allo stesso tempo seminatore, seme e frutto della semina, è il pane di vita eterna. Il miracolo costantemente rinnovato della Sacra Eucaristia ha in sé tutte le caratteristiche proprie dell'agire di Gesù. Perfetto Dio e perfetto uomo, Signore del cielo e della terra, egli si dona a noi per essere nostro sostentamento nel modo più naturale e comune. Attende il nostro amore da quasi 2000 anni. È tanto, ma è poco, perché quando c'è amore, il tempo vola. Mi torna alla memoria uno dei cantici di Alfonso il Saggio in cui si narra la leggenda di un monaco che nella sua semplicità aveva supplicato la Madonna di poter contemplare il cielo anche solo per un istante. La Vergine ne esaudì il desiderio e il buon monaco venne portato in paradiso. Al ritorno non riconosceva nessuno di quelli che dimoravano nel monastero. La sua contemplazione, che aveva creduta brevissima, era durata 3 secoli. 3 secoli sono un nonnulla per un cuore innamorato. Io mi spiego allo stesso modo i 2000 anni di attesa di Gesù nell'Eucaristia. È l'attesa di Dio che ci ama, ci cerca, ci accetta come siamo, con i nostri limiti, i nostri egoismi, la nostra incostanza, e tuttavia capaci di scoprire il suo amore infinito e di darci a Lui interamente. Gesù è venuto sulla terra ed è rimasto in mezzo a noi nell'Eucaristia per amore e per insegnarci ad amare. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Sono le parole con cui l'evangelista Giovanni comincia a narrare gli avvenimenti di quella vigilia di Pasqua, nella quale Gesù, come ci riferisce San Paolo, prese del pane, e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Una vita nuova. È il momento semplice e solenne dell'istituzione del Nuovo Testamento. Gesù deroga all'antica economia della legge e ci rivela che Lui stesso sarà il contenuto della nostra orazione e della nostra vita. Guardate la gioia che trabocca dalla liturgia odierna. Sia piena la lode, sia sonora, sia gioconda. È l'esultanza cristiana che canta la venuta di una nuova era. La Pasqua nuova della nuova legge mette fine all'antica. Il nuovo rito sostituisce il vecchio. La verità disperde l'ombra. La luce fuga le tenebre. Miracolo d'amore. Ecco veramente il pane dei figli. Gesù, il primogenito dell'Eterno Padre. È Lui che si offre a noi come alimento. Lui stesso che quaggiù ci nutre, ci attende in cielo per farci Suoi commensali, coeredi e soci nella città dei santi, perché chi si nutre di Cristo morirà di morte terrena e temporale, ma vivrà eternamente, perché Cristo è la vita in peritura. Il cristiano, confortato dalla nuova e definitiva manna dell'Eucaristia, pregusta già ora la felicità eterna. Le cose vecchie sono passate, e per noi, abbandonato ciò che è caduco, tutto sia nuovo, il cuore, le parole, le opere. È questa la buona novella. È novità, conoscenza nuova, perché ci parla di una profondità d'amore che per prima non sospettavamo neppure. Ed è buona perché non c'è niente di meglio che unirci intimamente a Dio. Bene di tutti i beni. E buona novella perché in modo ineffabile ci preannuncia l'eternità. Frequentare Gesù nella parola e nel pane. Gesù si nasconde nel Santissimo Sacramento dell'altare per incoraggiarci a frequentarlo, per essere il nostro nutrimento, per fare di noi una sola cosa con Lui. Dicendo «senza di me non potete far nulla», non ha condannato il cristiano all'inefficacia, né lo ha obbligato a una ricerca penosa e ardua della sua persona. È rimasto in mezzo a noi, completamente disponibile. Quando ci riuniamo davanti all'altare per il santo sacrificio della messa, quando contempliamo l'ostia sacra nell'ostensorio o l'adoriamo nascosta nel tabernacolo, dobbiamo ravvivare la nostra fede, pensare all'esistenza nuova che ci viene donata e commuoverci dinanzi all'amore e alla tenerezza di Dio. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Così ci viene narrata dalla Scrittura la condotta dei primi cristiani. Sono spinti dalla fede degli apostoli alla perfetta unità, all'Eucaristia, all'orazione unanime, fede, pane, parola. Nell'Eucaristia Gesù ci dà la garanzia fedele della sua presenza nelle nostre anime, della sua potenza che sostiene il mondo, delle sue promesse di salvezza, grazie alle quali la famiglia umana, quando verrà la fine dei tempi, abiterà per sempre nella dimora del cielo, in seno a Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, Trinità Santissima e Dio Unico. È tutta intera la nostra fede ad essere posta in atto quando crediamo in Gesù e nella sua presenza reale sotto le specie del pane e del vino. Non comprendo come si possa vivere cristianamente senza sentire il bisogno di un'amicizia costante con Gesù nella parola e nel pane, nella preghiera e nell'Eucaristia. Comprendo bene invece i vari modi in cui, lungo i secoli, le successive generazioni di fedeli hanno concretato la pietà eucaristica, alcune volte con pratiche collettive che esprimevano pubblicamente la loro fede, altre con atteggiamenti nascosti e silenziosi nella pace sacra del Tempio o nell'intimità del cuore. Dobbiamo anzitutto amare la Santa Messa, che deve essere il centro della nostra giornata. Se si vive bene la Messa, com'è possibile poi per tutto il resto del giorno non avere il pensiero in Dio, non avere la voglia di restare alla Sua presenza per lavorare come Egli lavorava e amare come Egli amava? Impariamo dunque a ringraziare il Signore di un'altra Sua delicatezza d'amore, quella di non aver voluto limitare la Sua presenza al momento del sacrificio dell'altare, ma di aver deciso di restare nell'ostia santa che si conserva nel tabernacolo. vi dirò che per me il tabernacolo è come Betania, il luogo tranquillo di pace dove c'è Cristo, dove possiamo raccontargli le nostre preoccupazioni e le nostre pene, le nostre aspirazioni e le nostre gioie, con la stessa semplicità, la stessa spontaneità con cui gli parlavano i suoi amici Marta, Maria e Lazzaro. Ecco perché mi rallegro percorrendo le strade di qualche città o paese quando scopro, anche solo in lontananza, il profilo di una chiesa. È un altro tabernacolo, un'altra occasione perché l'anima fugga con il desiderio accanto al Signore nel sacramento. Fecondità dell'Eucaristia. Era di notte quando il Signore, nell'ultima cena, istituì la Sacra Eucaristia. La circostanza, commenta San Giovanni Crisostomo, indicava che i tempi si erano compiuti. Scendeva la notte sul mondo perché i vecchi riti, gli antichi segni della misericordia infinita di Dio verso l'umanità, stavano per realizzarsi pienamente, aprendo il cammino a una vera aurora, la nuova Pasqua. L'Eucaristia fu istituita nella notte, in preparazione all'alba della resurrezione. Ed è proprio questo albore che dobbiamo preparare anche nella nostra vita. Dobbiamo rifiutare e allontanare da noi tutto quanto è caduco, dannoso o inutile. Lo scoraggiamento, la sfiducia, la tristezza, la viltà. La Sacra Eucaristia comunica ai figli di Dio la novità divina. E a noi tocca corrispondere in novitate sensu, rinnovando tutto il nostro sentire e il nostro operare. Ci è stato dato un principio nuovo di energia, una radice potente innestata al Signore. E noi, che possediamo ormai il pane di oggi e di sempre, non possiamo tornare al lievito di una volta. In questa festa, in tante città della terra, i fedeli in processione accompagnano il Signore. Egli, nascosto nell'ostia, percorre vie e piazze, come già nella sua vita terrena, mostrandosi a quelli che vogliono vederlo e facendosi incontro a quelli che non lo cercano. Così, ancora una volta, Gesù viene in mezzo ai suoi. Come rispondiamo alla chiamata del Maestro? Le manifestazioni esterne dell'amore devono nascere dal cuore e continuare in una testimonianza di vita cristiana. Il rinnovamento che si opera in noi al ricevere il corpo del Signore deve essere manifestato nelle opere. Rendiamo dunque sinceri i nostri pensieri, che siano pensieri di pace, di donazione, di servizio. Rendiamo le nostre parole vere, chiare, opportune, che sappiano consolare e aiutare, che sappiano soprattutto portare agli altri la luce di Dio. Rendiamo le nostre azioni coerenti, efficaci, appropriate, abbiano il bonus odor Christi, il profumo di Cristo, che ce ne richiama il comportamento e la vita. La processione del Corpus Domini manifesta la presenza di Dio per città e villaggi. Ma questa presenza, ripeto, non può essere cosa di un giorno, un vociare confuso, udito e subito dimenticato. Il passaggio di Gesù ci ricorda che dobbiamo scoprirlo anche nelle nostre attività quotidiane. Accanto alla processione solenne di questo giovedì, ci deve essere la processione silenziosa e umile della vita ordinaria di ogni cristiano, uomo tra gli uomini, ma con il privilegio di aver ricevuto la fede e la missione divina di comportarsi in modo tale da rinnovare sulla terra il messaggio del Signore. Non siamo immuni da errori, da miserie, da peccati, ma Dio è con gli uomini e dobbiamo far sì che si serva di noi perché il suo passaggio tra le creature sia ininterrotto. Chiediamo allora al Signore che ci conceda di essere anime di Eucaristia e che il nostro rapporto intimo con Lui si esprima in gioia, serenità, in desiderio di giustizia. È così che agevoleremo agli altri il compito di riconoscere Cristo e che daremo il nostro contributo per collocarlo al vertice di tutte le attività umane. Avrà compimento la promessa di Gesù: io, quando sarò innalzato da terra, attirerò a me tutte le cose. Il pane e la messe, comunione di tutti gli uomini. Gesù, vi dicevo, è il seminatore e per mezzo dei cristiani continua la sua semina divina. Cristo stringe il frumento nelle sue mani piagate, lo imbeve del suo sangue, lo pulisce, lo purifica e lo getta nel solco del mondo. Getta i chicchi a uno perché ogni cristiano dia testimonianza nel proprio ambiente della fecondità della morte e risurrezione del Signore. Posti dunque nelle mani di Cristo, dobbiamo lasciarci impregnare dal suo sangue redentore, lasciarci spargere nel solco, accettare la nostra vita come Dio vuole che sia e convincerci che il seme per dar frutto deve sotterrarsi e morire. S'innalza allora lo stelo e nasce la spiga, dalla spiga il pane, che Dio trasformerà nel corpo di Cristo. In tal modo torniamo a riunirci con Gesù, che è stato il nostro seminatore. Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Cerchiamo di non dimenticare che non c'è frutto se prima non c'è la semina. È necessario pertanto diffondere generosamente la parola di Dio e aiutare gli uomini a conoscere Cristo, perché sentano fame di Lui. La festa del Corpus Domini, corpo di Cristo, pane di vita, è una buona occasione per considerare quanta fame si avverte oggi fra gli uomini, fame di verità e di giustizia, di unità e di pace. Dinanzi alla fame di pace, noi ripetiamo con San Paolo, Cristo è Pax Nostra, la nostra pace. Dinanzi all'anelito di verità, dobbiamo ricordare che Cristo è la via, la verità e la vita. Chi aspira all'unità deve porsi di fronte a Cristo, che prega affinché siamo consummati in unum, perfetti nell'unità. La sete di giustizia deve guidarci alla sorgente da cui scaturisce la concordia fra gli uomini, l'essere e il sapersi figli del Padre e quindi fratelli. Pace, verità, unità, giustizia. Come sembra difficile a volte la missione di superare le barriere che impediscono la convivenza umana. Eppure, noi cristiani siamo chiamati a operare il grande miracolo della fraternità, a ottenere, con l'aiuto della grazia divina, che gli uomini si comportino cristianamente, portando gli uni i pesi degli altri, vivendo il comandamento dell'amore, che è vincolo di perfezione e riassume tutta la legge. Sappiamo bene che c'è tanto da fare. Un giorno, forse contemplando l'ondeggiare delle spighe ormai mature, Gesù disse ai suoi discepoli, «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe. Anche oggi, come ieri, mancano i braccianti disposti a sopportare il peso della giornata e il caldo. Se poi noi, che già lavoriamo, non siamo fedeli, accadrà quanto ha scritto il profeta Gioele. Devastata è la campagna, piange la terra perché il grano è devastato, è venuto a mancare il vino nuovo, è esaurito il succo dell'olivo. Affliggetevi, contadini, alzate lamenti, vignaioli, per il grano e per l'orzo, perché il raccolto dei campi è perduto». La messe si perde quando non si vuole accettare generosamente un lavoro intenso, a volte anche lungo e faticoso. Preparare la terra, gettare la semente, avere cura dei campi, provvedere alla mietitura e alla trebbiatura. Il regno di Dio si edifica nella storia, nel tempo. Il Signore ne ha affidato il compito a noi tutti e nessuno può sentirsene esentato. Oggi, mentre adoriamo e contempliamo Cristo nell'Eucaristia, ricordiamoci che non è ancora giunta l'ora del riposo. La giornata continua. Nel libro dei Proverbi leggiamo, «Chi coltiva la sua terra si sazia di pane». Cerchiamo di applicare spiritualmente a noi stessi questo passo. Chi non lavora il terreno di Dio e non è fedele alla missione divina di servizio agli altri, aiutandoli a conoscere Cristo, difficilmente riuscirà a capire che cos'è il pane eucaristico. Non si apprezza ciò che non costa sforzo. Per stimare e amare la Sacra Eucaristia è necessario percorrere lo stesso cammino di Gesù, essere grano di frumento, morire a noi stessi, risorgere pieni di vigore e dare frutto abbondante, il 100 per 1. Questo cammino si riassume in una sola parola, amare. Amare vuol dire avere il cuore grande, sentire le preoccupazioni di quelli che ci circondano, saper perdonare e comprendere, sacrificarsi in unione a Gesù Cristo per tutte le anime. Se impariamo ad amare con lo stesso cuore di Cristo, impareremo a servire, a difendere con generosità e chiarezza la verità. Per amare in questo modo è necessario estirpare dalla propria vita tutto quanto è di ostacolo alla vita di Cristo in noi: l'attaccamento alla comodità, le suggestioni dell'egoismo, la tendenza alla vanagloria. Potremo trasmettere agli altri la vita di Cristo solo a condizione di riprodurla in noi stessi. Potremmo lavorare nelle viscere del mondo, trasformandolo dal di dentro, renderlo fecondo, solo a condizione di sperimentare in noi stessi la morte del chicco di frumento. L'ottimismo cristiano. Forse qualche volta ci viene la tentazione di pensare che tutto ciò è bello, ma è un sogno irrealizzabile. Vi ho già detto di rinnovare la fede e la speranza. Siate dunque perseveranti e abbiate la sicurezza che le vostre aspirazioni saranno colmate dalle meraviglie di Dio. Ma è indispensabile che ci ancoriamo solidamente alla virtù cristiana della speranza. Cerchiamo di non abituarci ai miracoli che si compiono dinanzi ai nostri occhi, a questo mirabile prodigio del Signore che scende ogni giorno nelle mani del sacerdote. Gesù ci vuole ben desti davanti alla grandezza del suo potere, davanti alle parole della sua promessa. Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum. Seguitemi e vi farò pescatori di uomini. Sarete efficaci e porterete le anime a Dio. Dobbiamo dunque avere fiducia nelle parole del Signore. Dobbiamo salire sulla barca, mettere mano ai remi, issare le vele e lanciarci nel mare del mondo che Cristo ci affida come sua eredità. Duc in altum et laxate rezia vestra in capturam. Spingetevi al largo e gettate le reti per la pesca. Lo zelo apostolico che Cristo ha posto nel nostro cuore non deve estinguersi per falsa umiltà. Se è pur vero che trasciniamo le nostre miserie, è altrettanto vero che il Signore fa leva anche sui nostri errori. Al suo sguardo misericordioso non sfugge che gli uomini sono creature limitate, deboli, imperfette, inclini al peccato. E tuttavia ci comanda di lottare, di riconoscere i nostri difetti non per disperare, ma per pentirci e maturare l'impegno di migliorare. Dobbiamo inoltre ricordare sempre che siamo soltanto strumenti. Ma che cos'è mai Apollo? Cos'è Paolo? Ministri attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno secondo che il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. La dottrina che portiamo, il messaggio che dobbiamo diffondere, hanno una fecondità propria e infinita che non ci appartiene perché è di Cristo. È Dio stesso che si è assunto l'impegno di compiere l'opera salvifica, di redimere il mondo. È dunque necessaria una fede grande, che vinca sia lo scoraggiamento sia la tentazione di calcoli puramente umani. Per superare gli ostacoli è necessario mettere mano al lavoro, impadronirci del compito che ci tocca, affinché lo stesso sforzo ci apra nuovi sentieri. La panacea per ogni difficoltà è una sola: santità personale, dedizione al Signore. Essere santi vuol dire né più né meno vivere come ha stabilito il Padre nostro che è nei cieli. Mi direte che è difficile, e lo è. L'ideale è ben alto, ma al tempo stesso è facile perché è a portata di mano. Quando qualcuno cade ammalato, gli può capitare di non trovare la medicina adatta. Sul piano soprannaturale questo non avviene. La medicina è sempre vicina. È Cristo Gesù, presente nella Sacra Eucaristia, che ci dà la sua grazia anche attraverso gli altri sacramenti che ha voluto istituire. Ripetiamo dunque con le parole e con le opere: Signore, confido in te. Mi basta la tua provvidenza ordinaria, il tuo aiuto d'ogni giorno. Non dobbiamo chiedere al Signore grandi miracoli, dobbiamo piuttosto supplicarlo di aumentare la nostra fede, di illuminare la nostra intelligenza, di fortificare la nostra volontà. Gesù resta sempre vicino a noi e si comporta sempre per quello che è. Fin dall'inizio della mia predicazione vi ho messo in guardia contro una falsa deificazione. Non turbarti quindi nel riconoscerti come sei, una creatura di fango. Non preoccuparti, perché tu ed io siamo figli di Dio. Ecco la vera deificazione. Scelti per chiamata divina fin dall'eternità. Ci ha scelti il Padre in Gesù Cristo prima della fondazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto. Noi, che apparteniamo a Dio in modo peculiare e che nonostante la nostra miseria siamo strumenti suoi, saremo efficaci nella misura in cui non perderemo la cognizione della nostra debolezza. Le tentazioni ci segnalano le dimensioni della nostra miseria. Se provate tristezza, constatando con evidenza la meschinità della vostra condizione, vuol dire che è giunto il momento dell'abbandono completo e docile nelle mani di Dio. Narrano di un mendicante che un giorno si fece incontro ad Alessandro Magno chiedendo l'elemosina. Alessandro si fermò e diede ordine che lo facessero signore di 5 città. Il poveretto, sconcertato, esclamò: «Io non chiedevo tanto». E Alessandro, di rimando: «Tu hai chiesto da quel che sei, io ti ho dato da quel che sono». E noi dunque, anche nei momenti in cui più brutalmente constatiamo i nostri limiti, possiamo e dobbiamo rivolgerci a Dio Padre, a Dio Figlio e a Dio Spirito Santo, consapevoli di partecipare alla vita divina. Non esistono ragioni sufficienti a farci volgere indietro lo sguardo. Il Signore è con noi. Dobbiamo affrontare i nostri doveri fedelmente e lealmente, cercando in Gesù l'amore e lo stimolo per comprendere gli errori altrui e superare i nostri. E così la nostra miseria, la tua, la mia e quella di tutti gli uomini, servirà di sostegno al regno di Cristo. Riconosciamo le nostre infermità, ma confessiamo la potenza di Dio. La vita cristiana deve essere informata dall'ottimismo, dalla gioia, dalla certezza che il Signore vuole servirsi di noi. Consapevoli di essere parte della Chiesa Santa, di essere saldamente ancorati alla roccia di Pietro e sostenuti dall'azione dello Spirito Santo, ci decideremo a compiere il piccolo dovere di ogni istante, seminare ogni giorno un po'. Il raccolto traboccherà dai granai. Concludiamo questa meditazione. Assaporando nel vostro intimo l'infinita bontà di Dio, pensate che Cristo, alle parole della consacrazione, si fa realmente presente nell'ostia, in corpo, sangue, anima e divinità. Adoratelo con riverenza e devozione. Rinnovate in sua presenza l'offerta sincera del vostro amore. Ditegli senza timore che lo amate. Rendetegli grazie per questa prova quotidiana della sua amabile misericordia e crescete nel desiderio di avvicinarvi con fiducia alla comunione. Io mi commuovo dinanzi a questo mistero d'amore. Il Signore cerca il mio povero cuore per farne il suo trono, per non abbandonarmi, a condizione che io non mi allontani da Lui. Ricreati dalla presenza di Cristo, rifocillati dal suo corpo, sapremo essere fedeli in questa vita terrena per chiamarci poi vincitori nel cielo, accanto a Gesù e a Maria sua madre. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore, nostro Gesù Cristo.